tanti anni fa, quando c'erano i boschi e le città, il cielo blu, l'alta marea e gli animali in quantità. Le lunghe strade, la velocità, i grandi spazi e l'armonia. Aveva coraggio e fantasia, ma all'improvviso l'uomo è andato via. Là c'era la campagna, tra il verde della collina, dove il tempo passava più lento e il sole nasceva ogni mattina, e i figli dei nostri figli avevano un Dio che non c'è più. Un poco gli rassomigli, non eran troppo diversi da come sei tu. Noi delle stelle non abbiamo città, ci spostiamo leggeri qua e là, nell'armonia, nell'immensità, per ogni tanto torniamo qua. In mezzo alle strade vuote, seduti su una collina, ascoltiamo i discorsi mischiati al silenzio di una notte senza mattina. Torniamo in fretta a casa, amore, è quasi notte, il sole è già andato giù. Adesso a letto presto, figli, domani è un altro giorno, ma domani non c'è più.